Torniamo insieme all'indigesto e se Blanco rischia di finire a processo per danneggiamento, c'è chi rischia ancora di più. Stiamo parlando di una band trap, il P38, che ha fatto discutere di sé anche qualche mese fa in seguito a una performance, una band che ha un immaginario e anche un modo di presentarsi sul palco che rievoca gli anni di piombo, e la procura di Torino li indaga per istigazione a delinquere con la aggravante del terrorismo. Per insomma commentare queste cose siamo al telefono con un musicista, Bebo, dello Stato Sociale, che saluto, buongiorno. Ciao a tutti. Allora Bebo, che impressione ti sei fatto di questa vicenda che sta letteralmente travolgendo i P38? Guarda, se non facesse piangere farebbe ridere, perché è incredibile che si dia innanzitutto così tanto peso alla cultura in Italia, che non è mai successo, addirittura una band che può sconvolgere gli equilibri del paese, come viene accusata la P38, e poi dall'altro lato ovviamente l'incapacità di leggere quella che è un'opera di finzione, no? Cioè a me sembra incredibile che si debba perseguire una band per quello che fa, mettendosi le maschere e diventando dei personaggi. È come se dovessimo andare, non lo so, dietro a Marco Bellocchio per i film sul caso Moro, o non lo so, a David Fincher perché ha fatto Fight Club e la gente si prendeva pizza in faccia. Mi sembra veramente una cosa che è difficile, no, da mettere nell'ordine logico delle idee, cioè a me sfugge proprio a un certo momento riuscire a comprendere il perché per davvero, al di là di quello che viene raccontato dal punto di vista giudiziario, che dal mio punto di vista personalmente è ridicolo, cioè proprio ridicolo e anche infamante. Prima con Bortolini parlavamo della questione che viene evocata del cattivo esempio, ma allora facevamo notare, per restare alla musica, che De André con canzoni come il Bombarolo sarebbe finito in galera. Sì, sì, assolutamente, ma infatti io credo che ci sia poi, come dire, sotto traccia un doppio binario, come dire, a voler pensare male, ecco, no? Proviamo a pensare male anche noi. Allora, da un lato probabilmente il bisogno di protagonismo di questa procura che non si capisce bene, che probabilmente si annoia o non ci sono cose più importanti nella civilissima Torino dietro cui andare, dall'altro lato evidentemente insomma uno spostamento a destra forte nella lettura della cultura del paese, che ha bisogno proprio di far vedere che il tempo libero, in generale il prodotto dell'immaginazione, non può allontanarsi da certi schemi e soprattutto non deve proporre alcune possibilità che insomma, come dire, sono normalmente date dal principio di evasione, no? Insomma, andiamo a vedere, ascoltiamo la musica, il film, il teatro, la letteratura, tutto quello che è produzione culturale è un modo per raccontare anche delle alternative. Ora, la P38 non è esattamente l'alternativa, ma fa un esercizio di fantasia secondo me molto interessante, e questo probabilmente preoccupa anche in luce insomma di tutta la spirale che ha coinvolto l'antagonismo e le alternative a partire dai centri sociali a salire. La P38 ha lanciato anche un crowdfunding per pagarsi le spese legali, sono già arrivate a 19.000 euro sui 25.000 chiesti, però quello che volevo chiederti come musicista è se una vicenda di questo tipo può avere degli effetti, può comportare dei rischi anche tra la censura e l'autocensura. Il rischio maggiore, secondo me, non è tanto che magari vengano dietro al band come lo sociale o a me medesimo, insomma, non credo che ci si spinga fino a là, ecco, non abbiamo poi neanche come band la capacità di artefarre così tanto la realtà, oltre che restituire un certo punto di vista. A me quello che spaventa è il silenzio del movimento culturale italiano nei confronti di questa vicenda. Cioè, siamo stati una settimana a parlare di una baracconata come Sanremo, dove lo abbiamo partecipato anche noi, quindi lo dico con tutto l'amore e il realismo del caso, che è una baracconata, e quella roba lì che succede ai P38 passa sotto traccia. Ma ragazzi, cioè stiamo scherzando, se non si fa argine assieme, se non si fa muro, questi qui poi davvero vanno a fare quello che gli pare, non possiamo accettarlo, ecco. Se questo, come dire, diciamo che è un esempio cardinale, ce ne sono tanti altri più piccoli che quotidianamente conosciamo dal punto di vista territoriale, magari il Writer invece che appunto la piccola associazione che non si vede riconosciuta i meriti, viene buttata fuori, il centro sociale, l'attivismo che viene perseguitato, insomma da qualche parte bisognerà pur prenderlo, no, in mano sta matassa. Ecco, non mi sembra che tra quelli che si scrivono sulle spalle pensati libera ci sia poi una sincera preoccupazione alla libertà, quella vera. Io ti ringrazio. Grazie a voi, è sempre un piacere.